noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. Secondo voi, Michele Uva si trova alla vicepresidente della UEFA perché è bello? È anche bello. La Christy Lane si trova in FIFA perché? Chi è che ha fatto queste operazioni? Chi? I gnomi dietro le scrivanie italiche? Allora, voi pensate che io a 74 anni abbia bisogno di sedermi su una sedia dopo che ho fatto 35 anni di banca, 20 anni di sindaco e 20 anni di Lega Dilettanti? Ha detto bene il presidente del CONI che il mondo dei dilettanti, chapeau! Andò a parlare francese, monsieur. Maintenant, nous parlons français. Tout de suite. Ma la question n'est pas que de parler comme ça. Io ho parlato con 4 o 5 di grandi allenatori. Sono tutti impegnati. Potranno dire la loro fra poco, fra tanto. E nessuno gli mette in bocca che non venivano per Tavecchia. È una falsità totale, una menzogna. Perché ho parlato con tutti. Beh, ieri, riassunto della puntata precedente, puntata di Tutti i Commenti di ieri, particolarmente movimentata per ragioni di cronaca, ci siamo divertiti anche abbastanza. Pierluigi Pardo oggi è anche venuto a trovarci. Sì, sì, senza sì, passare da casa dopo Tiki Taka. Perché c'è un grande rinnovamento in atto, no? Ci sono dei nomi di giovani candidati. Vabbè, vedremo che succederà nelle prossime ore. La voce che circola è quella di un possibile ritorno di Franco Carraro alla presidenza della Federcalcio. Carraro ha detto: mi metto a disposizione, serve un rinnovamento. Il che, detto da Carraro, perdonatemi, no, ma da, sconfina grande, molto grande tempo fin del, sì, del no, ridicolo. Grande esperienza, sicuramente, insomma. Comicità surreale. Vabbè, invece abbiamo un ospite che può illustrarci diverse cose, essendo stato dal 2007 al 2014 presidente della Federcalcio, ed è Giancarlo Abete che saluto e ringrazio. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Presidente, vogliamo capire subito una cosa perché io ancora non l'ho capita. La Federcalcio è commissariabile perché ieri subito Malagò ha detto commissariamo la Federcalcio, poi ha detto beh, però il commissario non lo faccio io perché non ho tempo. Adesso non si capisce bene se è commissariabile o no, mi aiuta a capire? Sì, ieri sera già diciamo c'era una situazione molto più articolata rispetto alle dichiarazioni del presidente Malagò del pomeriggio, perché ad un approfondimento giuridico è emerso che ci sono seri dubbi sul fatto che la federazione sia commissariabile, perché le situazioni per le quali è previsto il commissariamento della federazione di tutte le federazioni sono ben individuate e non sembra al momento che la federazione sia all'interno di queste condizioni. Quindi già da ieri sera, ma voi lo sapete meglio di me, è cominciata a circolare, come dire, una situazione di maggiore incertezza circa il commissariamento, peraltro confermato dal presidente Malagò anche nelle dichiarazioni di questa mattina. Poi passo la palla a Pardo, però io volevo chiederle, epilogo corretto questo, dimissioni di Tavecchio? Nei giorni scorsi abbiamo più volte ricordato l'episodio del Brasile, quando un minuto dopo l'eliminazione dell'Italia lei si presentò ai microfoni e si dimise insieme a Prandelli in contemporanea stereo un minuto dopo la fine della partita con la Costa Rica. Sì, l'ho fatto perché ho pensato che fosse comunque utile per il movimento calcio a dare l'opportunità di una riflessione, anche di un rinnovamento, inteso anche del fatto di cercare strade nuove. Io ho fatto il presidente della federazione per 7 anni e mezzo. Ricordo peraltro che Prandelli era arrivato secondo ai campionati europei del 2012, nel 2013 avevamo fatto un terzo posto alla Confederation Cup e un secondo posto ai campionati europei Under 21, il mondiale è andato male, anche se lui si era qualificato con 2 giornate di anticipo rispetto alla fine del girone, però insomma Prandelli da un punto di vista di progetto sportivo, a me in relazione al fatto che comunque ero il presidente della federazione che non si qualificava per la fase successiva del mondiale, è sembrato giusto, anche per far venir meno gli alibi. A distanza dei 3 anni e mezzo mi sembra che, come dire, non è che ci siano tanti alibi, quindi probabilmente il problema era ben più profondo che non quello del commissario tecnico o in qualche modo della guida, perché poi un movimento come quello del calcio non è che si ha come immagine quella del presidente federale, ma poi bisogna vedere i tanti ruoli che recitano tante persone all'interno del mondo del calcio. Assolutamente, no, è proprio questo è il concetto, cioè quanta responsabilità oggettiva c'è per un presidente federale di fronte a un fallimento sportivo. Lei, appunto, l'abbiamo ricordato, si dimise dove eravamo? A Natal, credo, esatto, dopo quella sfortunata partita con l'Uruguay. Perché la tesi di Tavecchio è riassumo per chi non l'avesse è rivendicare una serie di risultati ottenuti nell'ambito della politica sportiva e quindi in pratica dire la parte più strettamente politica del lavoro, più strettamente manageriale del lavoro, io l'ho fatta bene, mi dimetto, ma insomma in realtà non avrei voglia di dimettere. Questo è un po' il concetto di Tavecchio. Sì, è un ragionamento che ha una sua validità, senz'altro. C'è solo un problema, che il calcio non è una scienza esatta, il calcio è una realtà emozionale, passionale, collegata in qualche modo anche alle sensibilità, a un forte rapporto con l'opinione pubblica, non è appunto una scienza esatta, e naturalmente i risultati sportivi nel calcio sono importanti. È chiaro che è più difficile ottenere un risultato sportivo per un presidente della federazione che non per un presidente di un club. Per quale motivo? Perché il presidente di un club fa la scelta dei giocatori in Serie A a 360 gradi in tutto il mondo. Si sceglie il tecnico, lo esonera o comunque con maggiore facilità, perché evidentemente insomma la nazionale è una realtà più delicata, fa la campagna trasferimenti, è il soggetto che in qualche modo stipendia i tesserati e quindi ha un potere contrattuale, ma un potere contrattuale molto elevato. Ma soprattutto il presidente o una società di Serie A, per esempio, disputa 38 partite di campionato. E sulle 38 partite di campionato i valori sostanziali escono fuori, c'è poco da dire. Quando invece si va agli europei, ai mondiali, si trova tutto sul filo di una partita, di due partite. Quante volte l'Italia ha vinto il mondiale ai rigori e ha perso tante volte ai rigori? C'era una serie storica che c'era messo fuori fin dall'Argentina, diciamo, i mondiali naturalmente italiani del 1990, e ancora io ero capo delegazione nel 98 e perdemmo ai quarti di finale con la Francia, che poi vinse il mondiale, e ancora in altre occasioni. E quindi è chiaro che il rischio sportivo di un presidente federale, diciamo, purtroppo è strutturalmente più elevato, perché c'è minore capacità o possibilità di incidere sulla strutturazione, diciamo, chiaro, sulla formazione. E nel contempo c'è una situazione in cui la poca numerosità delle partite determina un aumento del tasso di rischio. È un all-in, il mondiale europeo è un all-in, si brucia tutto in un mese, una settimana, in un attimo. D'altro canto, noi siamo usciti anche con l'Uruguay quando eravamo in 10 per un'espulsione, come devo dire, che abbiamo contestato, è stata contestata, abbiamo preso il gol nell'ultimo quarto d'ora della partita, in 10 contro 11, era l'Uruguay, insomma non era neanche una squadra di secondo livello. Il calcio è questo. Questo è il calcio, ma soprattutto questo è il calcio delle nazionali. Presidente, questo è il calcio delle nazionali. Questo è così, è fatto così. Adesso che succederà e che cosa bisogna fare? Perché insomma c'è stato, anche condivisibile, no? Molto, molto vento mediatico contro Tavecchio, con tante persone, anche illustri opinionisti, giornalisti, miei colleghi, che chiedono un grande rinnovamento. Poi il giorno dopo andiamo a vedere che tanto si vota col vecchio sistema. Bisogna essere tutti quanti noi intellettualmente onesti. Io ho parlato più volte con Carlo Tavecchio, l'ho sentito anche dopo il Consiglio federale, perché la qualità dei rapporti personali e il rispetto delle persone deve prescindere dalla critica di politica sportiva o da posizioni diverse. Però onestamente pensare che i problemi si risolvano individuando un responsabile dopo 3 anni e mezzo, 4 anni, e quando poi ci sono dei risultati sportivi che non sono convincenti, ci sono una serie di problemi, le due leghe professionistiche che ancora sono commissariate. Questi 3 anni e mezzo ci sono stati 3 presidenti della Lega Dilettanti, tutte e 3 le leghe professionistiche commissariate, anche la Lega Pro che adesso ha come presidente Gabriele Gravina, e quindi evidentemente ci sono problemi più strutturali e c'è un problema del nostro paese. Peraltro i risultati non vengono non solo nel calcio ma in tutti gli sport di squadra, così come noi invece ambiremmo che questi risultati venissero, per cui noi non siamo più in grado come paese, anche a livello sportivo, di fare squadra, di esprimere dell'eccellenza sportiva negli sport di squadra. Ma come diceva Pardo, c'è comunque una sorta di responsabilità oggettiva del presidente federale, almeno così è sentita dall'opinione pubblica. Presidente, le chiedo un 30 secondi di pazienza, perché io avrei ancora 3 domande in una e poi ho tre domande per te. Traffico. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. Tutti convocati. Dunque, a Giancarlo Abete, ex presidente della Federcalcio dal 2007 al 2014, io avrei ancora da rivolgere 3 domande in una. Allora, presidente, lei si ricandiderebbe per la presidenza federale, punto primo. Punto secondo, no, chi vedrebbe... No, assolutamente. Cioè. No, assolutamente. Ci ha raggiunto Giuseppe Cruciani e stia pronto allora. Allora, lei si ricandiderebbe? No, assolutamente. Questa è la risposta di Giancarlo Abete. Salve, buongiorno. Buongiorno. Chi vedrebbe come presidente della Federcalcio e cosa ne pensa del nome di Carraro? A chi vedrei come presidente della Federcalcio mi sembra un po' presto, perché se pensiamo che il problema sia dei nomi in qualche modo in partenza, vuol dire che già impostiamo male il discorso. Il problema è di capire come le varie componenti, il nostro è un sistema complesso, ha il 66% dei voti per delega e solo il 34% delle società professionistiche votano per testa, quindi come tale è un sistema, diciamo, in cui il ruolo della Lega Dilettanti, dell'AIAC, quindi degli allenatori, dei calciatori e degli arbitri, avviene attraverso un meccanismo che non è un meccanismo, diciamo, di elezione diretta. Spiego, solo quello delle società professionistiche avviene, diciamo, con un'elezione da parte della singola società. Ma va cambiato? Abete, questo sistema secondo lei non è un po' troppo complesso? Non va cambiato? È un problema complesso, è complesso perché anzitutto come fisiologico, perché alcuni mondi sono ovviamente fatti di molti soggetti, come ovviamente vale per i dilettanti, vale per i calciatori, vale per i tecnici e per gli arbitri. Naturalmente non ci può essere la votazione del singolo tesserato. E chiaramente è un sistema che fa sì che di fatto, diciamo, la verità è che votano 6-7 partiti, non so se rendo l'idea. No, appunto, sì, dico, perché il nome di Veltroni che è stato fatto, le piace? Qui ce lo chiede anche un ascoltatore, ci chiede di chiederglielo. Ma guardi, io posso dire che Veltroni è una persona di grande qualità, lo conosco, l'ho conosciuto in tante opportunità, ovviamente più istituzionali, con una grande passione anche sportiva, ma naturalmente, diciamo, non sono io il soggetto che deve dare le indicazioni. Il nostro meccanismo prevede che ci siano delle componenti le quali fanno una nomination, una sorta, basta una nomination. Meccanismo beh, lo conosciamo e purtroppo secondo me è troppo complesso, però c'è un profilo ideale secondo lei? Cioè, il profilo ideale in questo momento è un uomo delle istituzioni, diciamo, tradizionale, oppure una bandiera del calcio italiano? Cioè, oppure la macchina è troppo complessa per essere gestita da un ex? La macchina è una macchina obiettivamente complessa, non tanto per il fatturato, che pure è importante, perché parliamo comunque di un'azienda, chiamiamola così, che fattura 180 milioni all'anno. Io, diciamo, da questo punto di vista mi sono trovato bene, perché vengo dal mondo dell'impresa e quindi... Cioè, un ex giocatore, secondo lei, senza questo tipo di esperienza non va bene? Ma ci sono ex giocatori e ex giocatori, nel senso che naturalmente diciamo non basta che ci sia in qualche modo, tra virgolette, una persona che abbia un grande passato sportivo. Ci sono delle persone che hanno un grande passato sportivo e una grande capacità o una potenziale capacità di gestire processi complessi, e ce ne sono altri che non hanno queste qualità. Ma questo vale per tutti quanti noi, nel senso che non necessariamente un grande giocatore diciamo è un grande dirigente. Sì, ma avete già chiesto se lui si ricandiderebbe? No, ha detto no. Assolutamente no, assolutamente. Ha risposto subito no, assolutamente no. Io chiedo a Pierluigi Pardo se è l'ultima domanda, poi salutiamo Giancarlo Abete e continuiamo a parlare noi, sì, magari con gli ascoltatori. No, l'ultima domanda è sempre quella, cioè alla fine che come si esce da questa impasse, nel senso che poi le valutazioni su Tavecchio sono, mi pare ormai, varie e disparate per quello che riguarda la parte manageriale, certamente negative per l'esperienza con Ventura. Che bisogna fare, nel senso che poi, che bisogna, cioè, fare? Bisogna anzitutto avere un'unità di intenti che oggi manca nel paese, non soltanto nel mondo del calcio ma in tante altre realtà. Quando ci sono fenomeni complessi da affrontare, io penso che il prossimo presidente federale non possa essere un presidente da 52% dei voti, non sto sarendo l'idea, sì, perché ovviamente non ce lo possiamo permettere. Ci vuole un'assunzione di responsabilità di tutti i soggetti che hanno un ruolo all'interno del mondo del calcio e che in qualche modo facciano un patto, tra virgolette, di diciamo che consenta una ripresa diciamo di competitività del nostro paese anche a livello calcistico, perché se andiamo nella logica di chi ha preso il 53% e chi ha preso il 47%, però vabbè, un'ultima cosa, ma in questi giorni incredibilmente lei fu crocefisso praticamente dopo l'eliminazione. Sì, ma non molto, voglio dire, diciamo che c'è molti è andata peggio rispetto a me. No, però tu vuoi dire, lei fu messo insomma, no, sulla graticola all'epoca dopo l'eliminazione dei mondiali in Brasile. Molti in queste ore, in questi giorni, hanno rivalutato quella scena lì con lei e Prandelli seduti al tavolo, in cui prima lui, poi adesso non mi ricordo bene quale fu la successione delle dimissioni, in cui voi avete preso subito una decisione senza guardare troppo agli equilibri. Ha ricevuto un po' di giustizia in questi giorni, con in cui diverse giustizia, guardi, la giustizia, come dire, o è quella, chi se ne frega, la giustizia o è quella collegata ai tribunali. Tribunali, no, che no, in quel tutti senso. Quanti, oppure la giustizia ognuno di noi la trova all'interno della sua coscienza. No, ma quello senza d'accordo. Senza dubbio quello che è avvenuto in questi 3 anni e mezzo sta a dimostrare che insomma non è che siamo andati molto avanti, sia sul versante della competizione sportiva, sia sul versante, cioè, della solidità. Si stava meglio quando si stava peggio, si poteva dire. Non sono io a doverlo dire, però noi avevamo comunque la federazione, diciamo con tutti i problemi che ha avuto, era una federazione che aveva avuto in quei 7 anni soltanto il commissariamento tecnico, che consentì di passare dalla Lega Nazionale Professionisti alle due leghe di ADC. Secondo lei Buffon, facciamogli fare un nome, secondo lei Buffon, perché il passato è, secondo lei Buffon potrebbe avere un ruolo forte in nazionale come fu quello, come è stato quello di Riva, o un altro ruolo ancora? Buffon senza dubbio è di una diciamo qualità diciamo eccezionale da un punto di vista non solo, come dire, di dunque lei, diciamo, di lei lo vedrebbe bene come in federazione o comunque con un ruolo a livello nazionale, non so in che ruolo potrebbe essere, certamente, ma insomma un ruolo importante. Buffon è una persona, vuol dire, che ha le qualità anche proprio, come dire, di lettura delle potrebbe situazioni. Fare anche il presidente? Ma guardi, questo non dipende da me, voglio dire, potrebbe fare anche un presidente, o deve imparare. Non partecipo, vuol dire, alla logica. Invece io volevo chiedere una cosa, proprio ritornando a quell'immagine lì di Natal. Di Brasile, sì, del 2014. Si aspettava l'Avventura un comportamento diverso. In quei casi lì che succede? C'è già una discussione, una sorta di exit strategy fra presidente e commissario tecnico per avere una linea ben concordata? Perché certamente quando fu l'eliminazione, la prima cosa ovviamente fisiologico che avviene, che io andai negli spogliatoi e naturalmente incontrai Cesare Prandelli. Cesare Prandelli mi disse: guardi presidente, io avevo già maturato la decisione diciamo di dimettermi, Perché tra l'altro volevo favorire appunto un'assunzione di responsabilità del mondo del calcio, perché poi questi 3 anni e mezzo sembra che ci sia stato soltanto Tavecchio nel mondo del calcio, e io ho votato ovviamente per le sue dimissioni, però voglio dire, il mondo del calcio è stato, diciamo, fatto da tantissimi protagonisti, c'è stato un ruolo anche importante del CONI, lo ha ricordato il presidente Malagò quando parlava dell'incontro a casa sua con Lippi, proiettato alla individuazione del Sì, non ci scordiamo, sembra... Bete, che lo stesso Tavecchio ha avversato da una delle società più importanti e più influenti del calcio italiano, la Juventus, all'inizio, poi ha trovato nella Juventus un sostegno. Per cui non è che tutti quanti adesso... Andai negli spogliatoi e si decide come si dovrà fare. Fratelli disse: presidente, io ho intenzione di mi dimetto perché il progetto sportivo, vuol dire, non si è realizzato, questo risultato ovviamente. Ho detto: guardi, fratelli, lo capisco, lui aveva 2 anni di contratto legittimi, perché lui aveva fatto un secondo posto agli europei e aveva fatto un terzo posto alla Confederation Cup. Dico: guardi, Prandelli, la comprendo, anch'io darò le mie dimissioni irrevocabili, perché non voglio anzitutto che la federazione sia sotto scacco, perché la federazione anche in crisi è un grande patrimonio, voglio dire, del nostro paese, e merita rispetto. Ma lui prese dei soldi nell'uscita, Prandelli? Prese dei soldi? Assolutamente no. Dunque, la differenza è questa: Prandelli si dimette nel 2014 con l'eliminazione nei gironi, ricordo, con l'Italia qualificata, girone, e non prende un euro. E no, non prende due anni di contratto. E non prende un euro. Invece Ventura, legittimamente, per carità, corre ancora 7-8 mesi, prende 7-800 mila. Secondo lei c'è una differenza anche a livello di dignità in questa cosa oppure no? No, ha diritto a quei soldi, Presidente. C'è una differenza di gestione, perché io penso che Ventura ha fatto un contratto di 2 anni ed è giusto che a un certo punto, come avviene quando viene esonerato un allenatore, il contratto venga rispettato, vale anche per un dirigente che ovviamente ha delle tutele nel momento in cui viene licenziato, mi spiego? Quindi secondo me il problema purtroppo è montato in maniera... Per la dimensione della cosa, secondo lei, anche per non passare come quello, per carità, legittimamente attaccato al contratto a questi 700-800 mila euro, non avrebbe potuto dimettersi subito come fece Prandelli rinunciando a 2 anni di contratto? Ha fatto quello che riteneva. Questa è una valutazione soggettiva. Io penso che dato che purtroppo il risultato non era stato raggiunto, anche se capisco che per la federazione più difficile era sufficiente la sera stessa comunicare l'esonero, voglio dire, di Ventura, non so se rendo l'idea, che anche da un punto di vista di immagine di tutte le problematiche che sono sorte, ne sarebbero sorte il 5%. Nessuno avrebbe più parlato degli aspetti di natura economica, poi ognuno ha le sue garanzie, e dato che stiamo in una società in cui le garanzie vanno rispettate, era un problema. Prandelli non prese un euro mentre lui prende fino all'ultimo sicuramente euro. Io penso che in questa situazione qui si doveva fare una riunione fra Ventura e Tavecchio prima della gara di ritorno, o prima del playoff, e capire e stabilire già una strategia in caso di eliminazione. Ma questo è evidente, magari questo con un accordo, con un buon punto d'incontro, e questo avrebbe dato dal punto di vista, diciamo che purtroppo il problema, perché non c'è stata comunicazione successiva da parte dell'uno e dell'altro, non so se è montato in maniera tale da determinare un vulnus e anche un'immagine negativa che si poteva comunque evitare. Questo è chiaro. Grazie Presidente, grazie a voi, Giancarlo Abete, con cui abbiamo fatto questa lunga chiacchierata. Adesso ci fermiamo per la borsa, chi sta chi resta. Abbiamo qualche ascoltatore in linea, che Pierluigi Pardo sta, Cruciani che fai, vediamo, altri 5 minuti dai, così poi facciamo qualche ascoltatore. Borsa, mancherebbero 2 minuti, però mi hanno dato 3 minuti di proroga, quindi posso chiudere alle 23:20, mi manca 23:24, quindi vai con calma. Tutti convocati. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Allora, ci stavamo capigliando io, Cruciani e Pardo qui nello studio nel corso della pausa. No, adesso Cruciani, io mi stavo a fare la pennica, però volevo pagare il biglietto, volevo dare 5 euro. Comunque è incredibile, ragazzi, come in questi giorni ce ne siamo accorti anche ieri sera a Tiki Taka. In realtà, poi non so se andiamo incontro al pubblico, in realtà siamo fissati noi. Improvvisamente, rispetto a un argomento che sembrava morto come quello della nazionale, in realtà ci accapigliamo tutti. Sì, le dimissioni del presidente federale, le dimissioni anche dell'allenatore, Italia. Questo è il segno del fatto che l'eliminazione dell'Italia da un mondiale, cioè, è un qualcosa che va qualcosa al di là della questione del calcio. Ma assolutamente, è apocalittico. Lo dicevi ieri sera. Fatemi parlare un secondo con Memo da Padova, perché eri da un sacco di tempo. Poi voglio capire un attimo la cosa del Milan, perché ci sono tutto il pueblo rossonero in fibrillazione, e poi andiamo in Castazione. Mimmo, buongiorno. Sì, buonasera, grazie per la convocazione. Lei dica. Buonasera. Senta, io volevo dire due parole a proposito delle dimissioni di Tavecchio e della nazionale, ovviamente, tema del giorno. Ecco, sì, allora, per quanto riguarda le dimissioni, ho visto in diretta appunto le dimissioni di Tavecchio e devo dire sono molto contento che le abbia date. Vabbè. A proposito dei successi che Tavecchio vanta e di cui diciamo i giornalisti gli stanno dietro, io posso dire solo una roba. Allora, per quanto riguarda i conti in ordine, bisogna dire che la federazione riceve dal CONI, non da Margot, dal CONI, cioè dal governo, dalle tasse degli italiani, 46 milioni di euro. Se non ci fossero questi 46 milioni di euro, il bilancio della federazione è da portare subito in tribunale. I quattro posti in Champions vantati da Tavecchio, Čeferin, il presidente della UEFA, non li ha dati perché grazie ai buoni rapporti che ha con Tavecchio, ma perché l'Italia porta un audience che quello fa interesse. Hai ragione alla, su questo, alla UEFA. Aspetti un attimo. Per quanto riguarda l'organizzazione dell'Europeo del 21, l'Italia non l'ha mai fatto, quindi era ora che la UEFA desse l'organizzazione dell'Europeo dell'Alta 21 all'Italia, perché ricordo l'Italia ha vinto 5 campionati europei. Però non è tutto così automatico, mi consente, secondo me Tavecchio delle scelte, ripeto, politiche, cose che mi viene a sbadigliare solo a pensarci per quello che è il mio, però delle scelte politiche le ha azzeccate, nel senso che lui ha puntato, ha scaricato Blatter, è stato fra i primi, ha puntato su Čeferin e ha puntato su Infantino, e è oggettivo, non soltanto per merito suo sicuramente, è oggettivo che oggi le quattro squadre in Champions, è chiaro che portano interesse economico, ma non è che 5 anni fa o 10 anni fa, quando Platini decise di rendere molto più democratica la Champions aprendola ai paesi, questo non valeva. Fece una scelta perché gli serviva probabilmente coccolare alcuni paesi, perché diciamo alternativi, e magari gli servivano possiamo sbadigliare sulla parola politica, però quando le nostre finiscono fuori in Champions League, la nazionale finisce fuori, magari alcuni successi, ma anche successi relazionali. Attenzione, ha fatto anche delle cose, devo dire, in qualche modo anche positive, legate al clima di Malagò e anche dello stesso Lotti, per esempio il discorso della lotta al razzismo, se volete sono cose simboliche, però insomma c'è Fiona May da giunta, chi è che non è contro il razzismo, ma assolutamente ha fatto delle cose, il bilancio etico, adesso io quando finiamo fuori di realtà politicamente in conto un cazzo e ci arrabbiamo. Detto questo, Beninazzo, buongiorno. Ciao ragazzi, ciao. Buongiorno, mi spieghi in tre parole cosa sta succedendo al Milan? Perché potrebbe finire fuori dalle coppe? Facciamo, in realtà finire fuori dalle coppe l'ho detto marca, ma non è così. Nel senso che molto probabilmente la UEFA, preoccupata in particolare della poca chiarezza sulla proprietà rossonera, ha deciso di non concedere il voluntary agreement. Di conseguenza il Milan in primavera dovrà sottostare alle sanzioni, quelle che per esempio ha avuto l'Inter, ha avuto la Roma, sanzioni che saranno di vario tipo, e in extrema ratio ci sarà l'esclusione dalle coppe, ma al momento la UEFA non l'ha applicata a nessuno. Mm-hmm. Quindi c'è da preoccuparsi, ma non fino al punto da vedere il Milan fuori dalle coppe per decisione della UEFA. Questo in estrema sintesi. È molto presto, ma d'altra parte il Milan con Nuto e Mazziato rischia di non qualificarsi per le coppe, di essere multato pesantemente dopo una stagione pazzesca. Non qualsiasi problema alla radice. Marco, ci vediamo presto qua, grazie. Grazie presto, a voi, così abbiamo capito anche questa storia. Io saluto e ringrazio Marino Bartoletti, ciao Marino. Ciao a tutti ragazzi, che bello ascoltarvi, ci vuole proprio il biglietto, hai ragione. Le cose più belle sono fuori onda. Ci vuole l'arbitro e la VAR, Bartoletti. Ciao Marino, un abbraccio. Ciao. Ci vuole l'arbitro e la VAR qui. Allora, Carraro, la voce Carraro. Ragazzi, non scherziamo, ci dai. Vuole Carraro, ragazzi, Carraro che dichiara serve un rinnovamento, e io dico siamo oltre i limiti della comicità più pura, del cabaret, del ridicolo o della caricatura, no? Beh, già siete stati molto, come dire, crudeli a mandare in onda gli highlights della conferenza stampa di Tavecchio, perché effettivamente credo che la lettera di Totò e Peppino in Totò Peppino la malafemmina riesca in qualche modo a fatica a stargli appresso. Sì, però Marino, io se fossi stato in voi avrei fermato la trasmissione dopo l'intervento straordinariamente importante di Diabete, perché c'è ben poco da aggiungere, ragazzi, ha detto assolutamente tutto. Cioè, per quanto riguarda il presente e il futuro, la trasmissione anche troppo, cioè . Nulla, diciamo, noi abbiamo un sacco tutto di interruzioni, cioè, tutto cioè nulla, cioè nel senso che non è vero, ha detto cose molto importanti e guardato in filigrana alcune cose che ha detto in abetese sicuramente vanno soppesate e ne va tenuto conto. Adesso abbiamo fatto il 25 luglio, però chiamare Badoglio appunto. No, a me quello che sembra incredibile è che noi, vabbè, adesso sicuramente Tavecchio, io sono d'accordo, le dimissioni ci stanno, sono un atto dovuto, ma finiamo per rivotare con gli stessi uomini, sì, con lo stesso sistema di voto. Io non lo so come funziona, forse Marino lo sa di più, però io trovo inconcepibile che in un mondo veloce, in un mondo fatto ormai di rapidità, in un mondo di Twitter, di Instagram, che nel bene o nel male è questo mondo qui, non dico che le decisioni devono essere prese con un tweet, per carità, però Marino, non ti sembra incredibile, o al sorteggio come è successo drammaticamente ieri nella vicenda dell'agenzia del farmaco, però non ti pare incredibile che queste procedure di elezione del capo del calcio siano così complicate? Cioè la gente poi in realtà non capisce, è anche difficile per noi stare dietro a queste cose qui, il commissariamento, quando si può fare, i pareri legali e i possibili ricorsi, e poi c'è la questione delle leghe federali, cioè è tutto troppo complesso. Mi affido a Marino, sono stupito dal fatto che in un mondo così veloce nessuno, forse per varie convenienze e varie, sicuramente sarà così, abbia pensato di velocizzare e di rendere più semplice l'elezione in fin dei conti del capo del calcio italiano, per spululazione Marino, che per referendum, Bingo, ha perfettamente ragione. Ma certo che ha ragione, ma come lo risolvi, cioè, Marino? Questo sarebbe il quinto commissario in 18 anni della Federcalcio. Perfetto. E non sarebbe, come dire, qualcosa né di utile né di esteticamente accettabile. Il dramma è che la Federcalcio, per sua definizione, è la federazione italiana gioco calcio, e quindi riesce a liofilizzare in se stessa tutti i problemi del paese. Come dice Giuseppe, giustamente, dovrebbe essere, essendo una federazione sportiva, l'esempio di qualcosa di cliccabile, di veloce, di contemporaneo, di imprenditorialmente accettabile. Ragazzi, e questo purtroppo non succede. Non succede perché il presidente della Federcalcio è una persona rappresentativa soltanto di un mondo irreale, esatto, e non di un mondo che vive su questa terra. Ma non fatemi fare il giudice, però c'è anche una legge, c'è anche una carta che canta. Allora mettiamo un commissario con pleni potenziali, ma infatti noi stiamo contestando, oppure votiamo nei bar, Giuseppe, tu hai perfettamente ragione, però non mi fare il leguleio, non fare adesso quello che dice, però ci sono le carte che dicono che bisogna eleggere il presidente in un certo modo. No, noi stiamo dicendo che però quando questo mondo qui si deve mettere d'accordo ed è come fare un governo di coalizione, non so come ragazzi, ma Malagò, che uno in realtà che dovrebbe essere abituato così, ma non lo so, la prima cosa da fare sarebbe dire, ragazzi, per eleggere il capo dello sport italiano facciamo delle regole più semplici, cioè, perché a quel punto veramente viva il sorteggio, cioè, ma non ne ha il potere, non ne ha in questo momento il potere. Posso, ragazzi, dato che il calcio è il movimento sportivo trainante di questo paese dal punto di vista imprenditoriale, dal punto di vista, posso dire, anche culturale, è turistico. Ecco, dal calcio dovrebbe arrivare finalmente un esempio che fino adesso ancora non ha dato. Guardi, io sono un diluvista, cioè se un bel giorno il buon Dio ha mandato il diluvio universale con tanto di arca di Noè, avrà avuto i suoi motivi. Questo è un bel diluvio universale, fra l'altro la sconfitta con la Svezia, come sapete, è avvenuta esattamente 100 anni dopo Caporetto. Noi le cose importanti le abbiamo fatte sempre dopo un Caporetto, la Caporetto autentico, la Corea del 1966 che ci ha permesso di rigenerare il calcio italiano e di vincere di lì a poco, anche per una generazione di fenomeni che stava maturando, i primi e unici campionati europei, quelli del 68, e di arrivare nel 70 alla finale del campionato del mondo, peraltro accolti a pomodorate soltanto perché avevamo perso con Brasile. La pomodoro in lattina, cioè, la ricordiamo. Lo Tito, e mi viene il prurito a dirlo, direbbe: o porte tut scandale veniant, ok? sulle grandi tragedie, sui grandi scandali, dobbiamo avere la forza di costruire finalmente qualcosa di contemporaneo, e dal calcio italiano ce lo aspettiamo da tutti i punti di vista. Forse questo è il momento che il bradisismo, non dico il terremoto, il bradisismo possa portare a qualche riflessione, per cui ci guardiamo finalmente allo specchio, ci spogliamo dei nostri vecchiumi e pensiamo che il calcio è un percorso, ripeto, culturale, come ha capito persino l'inospitale Germania, per fare un passo avanti anche dal punto di vista sociale. Noi non dobbiamo guardare al software, che è il nome di un presidente e il nome di un commissario tecnico, dobbiamo guardare all'hardware, che va completamente rigenerato, sì, e ricostruito, sì, e in questo senso bello. C'è un mio amico di Monaco che mi dice sempre: che brutte città che avete voi, invece hai visto com'è bella Monaco? Io dico sì, perché ve l'hanno rasa al suolo i B-52 americani, esatto, e l'avete dovuta ricostruire, certo. Allora ragazzi, un attimo, traffico, torniamo. Siamo tutti convocati. Tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Tutti convocati. Altri 5 euro, do altri 5 euro per un altro fuori onda. Ma adesso il tema è capire, però, veramente come si eleggono i presidenti federali negli altri paesi. In questo caso, io e Pardo siamo laici, giusto, Pierluigi? Sì, molto, molto laici. Ce ne importa il giusto, no? Giusto, sì. Abbastanza, ma giusto. Allora, diciamo, Mario Bartoletti e Giuseppe Cruciani hanno fatto bellissimi discorsi alti e belli di filosofia. Però, no, che filosofia? No, filosofia. Pierluigi, io chiedo a te. Filosofia pragmatica, professore. Allora, no, abbiamo parlato di velocità, ragazzi. Io sono d'accordo con vai loro. Tu il punto... a fare presidente della Federcalcio, perché ti mandiamo noi, o facciamo un voto popolare nel bar, o facciamo un referendum. Se non si cambiano le regole, ragazzi, sì. Se non si cambiano le regole, faccio per dire banalmente: il mondo dei dilettanti ha un ruolo importantissimo, ma probabilmente pesa troppo. Dal punto di vista del consenso, quindi praticamente un uomo che quasi da solo ha il potere di dare la maggioranza o meno a un alla presidente fine, federale. Ma lo stesso presidente federale, torno a un punto di partenza, non è che lo possiamo volere bello, alto, magro. Adesso comincio a parlare come Tavecchio, con la giacchetta blu, perché è uno che guadagna 36.000 euro lordi, che per carità sono uno stipendio col quale si vive, ma che non è lo stipendio di un top manager che sta lì e che mette sul piatto l'esperienza. No. Questo può andare bene così. No, ma voglio dire una cosa, ognuno, io Marino credo che su questo sia d'accordo, ognuno delle componenti, credo che le rivoluzioni si possano fare solo in questo modo, di fronte alle catastrofi, se a qualcuno interessa ancora la federazione, la nazionale, eccetera eccetera, di fronte alle catastrofi o ciascuna componente del pallone deve rinunciare a un pezzo di potere. Questo è il punto. Finora l'elezione del presidente è stato sempre un grande compromesso, no? Grande compromesso tra vari poteri, e c'era questo signore presidente che garantiva un po' tutti. Poi magari poteva piacere a qualcuno meno, entrava in conflitto con qualcuno negli anni di presidenza. Credo che ognuno di ciascuna delle componenti debba rinunciare a un pezzo di potere, e bisogna ogni tanto dare, ragazzi, nel football americano funziona così. Adesso è un mondo assurdo, eccetera, però il football americano, c'è un signore cui si danno 40 milioni di dollari all'anno, esatto. Che il commissioner dell'NFL prende 40 milioni di dollari all'anno, e ovviamente con il mandato di produrre sempre più profitti e di fare sempre più quattrini, sì. Cioè alla fine il mandato della federazione di calcio, quello deve essere il brand federazione, il brand Italia, deve produrre profitti, poi ottenere ovviamente anche risultati, però si deve scegliere una specie di monarca, e quello è alla fine. Però al monarca bisogna dare i poteri, e quindi fai la rivoluzione. Io sono d'accordo su questo. Io ricordo che la Lega Calcio di Serie A, la Lega Calcio di Serie B non ha un presidente, perché è Tavecchi il commissario, e quindi fate voi due conti, no? Sì, questo ha dimenticato di dirlo in termini corretti ieri, quando ha enumerato i suoi meriti, mi sembra, Tavecchi. Sì, sì, no, su questo non c'è dubbio, ma secondo me alla fine, cioè, o si arriva a una cosa di questo tipo oppure qualsiasi nome sarà uguale. Giuseppe, cioè, hai talmente ragione che però ancora una volta, purtroppo, e Dio sa quanto mi costa, bisogna richiamare la Germania, dove tutto questo non è stato fatto internamente al movimento sportivo, ma è stato il governo centrale della Germania che ha preso per le orecchie qualcuno e ha detto: ragazzi, adesso si fa così con la K, ok? Assolutamente. Pensate che nelle ultime elezioni, dico solo questo perché è un dato statistico, Tavecchi ha vinto con quasi il 54% contro il 46% abbondante dei voti di Abodi, sicuramente persona più presentabile per le piccole cose non banali che aveva fatto come presidente della Lega di Serie B, non ancora sostituito, fra l'altro. Bene, quel 4%, fra l'altro, oltre che dai dilettanti in maniera sproporzionata, come si è detto, è stato determinato dagli arbitri 2%, gli arbitri hanno votato, cioè il fatto già che gli arbitri prendono una posizione secondo me è abbastanza incestuoso, per avere, come dire, piccole prebende, esatto. E dal 2% degli allenatori, che si è scoperto non essere rappresentati dalla persona giusta, anzi da una persona forse abbastanza asservita al potere, che è passato dal legarsi ai cancelli a legarsi alle poltrone. Io giuro che oggi vorrei essere Opti Pobà, anzi lo sono stato sabato scorso, chi mi segue su Facebook avrà visto la mia lettera in cui Opti Pobà scriveva al presidente Tavecchio dicendo: io non so come si dice dimettersi in Italia, però da noi in genere il capo, quando fallisce un grande raccolto, viene mandato via dal popolo, sì, perché di quello deve rendere conto. Però sappia che, non so come si dice mondiale di calcio da voi, ma noi senegalesi i mondiali di calcio li abbiamo conquistati, se vuole può venire da noi a vedere. anche noi islandesi. devo chiudere la trasmissione, purtroppo. Mario, grazie. Grazie a voi, ciao. Grazie Giuseppe Cruciani. Sarà c'è il Napoli, fra l'altro, questo pessimismo che c'è a Napoli, pochi biglietti in vendita, uno stadio quasi vuoto. In fin dei conti, poi se il Napoli vince, e vince anche in Olanda, chiaramente con dizio sine qua non, basta che il Manchester City faccia il suo dovere a Donetsk. Secondo me è dura, ma è possibile. Per me, allora, molto 30%? Molto, ma per me c'è un 30%. Ti vuoi condannare così a giocare giovedì? Ti vuoi condannare così a giocare giovedì? Ma sarebbe una iattura, su questo non ci sono dubbi. Tanto ne parliamo domani. Ciao a tutti. E casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!